Quando noi parliamo, abbiamo la possibilità di esprimere i nostri concetti usando più espressioni. Quando una persona ci dà noia, possiamo dire smettila oppure togliti dai piedi. La prima espressione è diplomatica, ortodossa, la seconda esprime in modo crudo la stessa realtà. La prima espressione rientra nei canoni dei nostri rapporti sociali. La seconda può anche essere offensiva. Così, a volte si usano espressioni diplomatiche per voler dire cose molto pesanti. Altre volte, invece, usiamo espressioni non conformi alle regole, quando si potrebbero usare vocaboli canonici. Una di queste espressioni non diplomatiche è «chi se ne frega», che sta al posto di «che me ne importa». Proprio perché l'espressione «chi se ne frega» è più di impatto, più diretta, ho tradotto dalla Bibbia, anche se in greco non è sempre così, questa espressione, al posto di «che me ne importa» o di altre locuzioni aventi lo stesso significato. Il risultato è stato inaspettato. Ecco sette riflessioni in merito, che rispecchiano anche sette aspetti della vita cristiana. 1. Isaia 1:10-19. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili? Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i noviluni e i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Noi pensiamo ad un Dio di amore che sopporta, perdona, accetta tutto, comunque e sempre. Questa è un travolgere la realtà. Il popolo di Israele era il popolo che l'Eterno aveva scelto, lo aveva liberato molte volte dai nemici e da situazioni drammatiche, aveva più volte manifestato il suo amore, ma il popolo non si dimostrava riconoscente con un cammino che lo onorasse. Così rubava, uccideva, commetteva adulteri, giurava il falso, bruciava incenso a Baal e andava dietro ad altri dei che non aveva mai conosciuti. Viveva spudoratamente nel peccato, eppure continuava a pregare, ad indire feste solenni, religiose, in onore all'Eterno. Questo era veramente un'offesa per l'Eterno, il quale arrivò a dire «Chi se ne frega di quello che fate, delle vostre feste e delle vostre preghiere?» Parole forti. A Dio non importa proprio niente se ne frega della vita religiosa di coloro che dichiarano di credere in Lui, quando ci è del peccato. Sono sempre esistite persone che fanno professione di fede pur vivendo in modo sbagliato. L'Apostolo Paolo le etichettò dicendo «Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona». Tito 1:16. E ora di uscire fuori dalla nostra cittadella di giustizia, solo perché, con le labbra, professiamo di amare Dio e crediamo in Lui. I fatti hanno più valore delle parole. L'Eterno chiede, quando è il momento, la confessione di peccato, il riconoscimento della nostra disubbidienza alla Sua volontà. Solo a queste condizioni le Sue promesse saranno applicate. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. L'amore, il perdono, le benedizioni di Dio non sono sempre incondizionati. Prendere atto del nostro allontanamento da Dio è il primo passo per avvicinarsi a Lui. Confessare i nostri errori è il secondo. Proprio a causa delle nostre riconciliazioni con Dio e con gli uomini, prive del presupposto di confessione di peccato, è molto probabile che ci sentiamo dire «Chi se ne frega dei tuoi atti di riconciliazione, di riavvicinamento, di rappacificazione, quando non vi è il riconoscimento dei tuoi errori?» Una divisione, un divorzio, una dissociazione fraterna causata dall'inimicizia, gelosia o contesa, e una loro riconciliazione senza confessione di peccato e senza perdono, è da ritenere satanica. Parole forti. Un principio indiscutibile nel regno di Dio è però che il perdono e la riconciliazione debbano avere come presupposto il riconoscimento dei propri errori. Un rapporto ripristinato senza giusti presupposti è come unire l'argilla con il ferro. E, di questo rapporto, l'Eterno Dio se ne frega. 2 Matteo 27, 1 a 5. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E, legatolo, lo condussero via e lo consegnarono nelle mani del governatore Ponzio Pilato. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Non toccati dall'amore di Dio, noi, esseri umani, siamo spietati, crudeli, disumani. Giuda, accecato dall'amore per il denaro, sapendo che i sacerdoti volevano prendere Gesù, si mise d'accordo con loro di tradirlo, per 30 denari. Vi era una strana intesa tra un discepolo di colui che i sacerdoti odiavano e i sacerdoti stessi. Dopo che Gesù fu arrestato e condannato, Giuda fu ripreso dalla sua coscienza e, tutto affranto, riportò il denaro ai sacerdoti confessando il suo errore. Giuda era disperato, abbattuto, sconsolato, ma i sacerdoti furono spietati di fronte al suo dolore e dissero: «Chi se ne frega di quello che hai fatto? Arrangiati! Non avendo avuto nessun aiuto, non avendo avuto il coraggio di andare a Gesù per chiedergli perdono, Giuda si impiccò. Triste fine, ma anche triste realtà. A volte siamo nel bisogno. Spesso, essendo nel bisogno, invochiamo aiuto, ma troviamo intorno a noi persone indifferenti, che indietreggiano quando il costo dell'aiuto è alto. Dobbiamo essere benigni verso tutti, senza stupirci però se proprio coloro che professano di seguire Dio, che pregano e leggono la parola di Dio come i farisei, sono quelli che se ne fregano maggiormente del prossimo. Nel racconto del buon samaritano, proprio un sacerdote e un levita, avendolo notato nel suo evidente stato di bisogno, se ne fregarono di lui. Dobbiamo dirlo, a volte, chi non professa nessuna religione è più umano, anche se, dobbiamo riconoscerlo, solo coloro che vivono il Vangelo hanno compiono atti di rara umanità. 3. Giovanni 21 e 20-23. Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: «Signore, chi è colui che ti tradisce?» Al vederlo, Pietro disse a Gesù: «Signore, e di costui che ne sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi». Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. «Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?» Pietro stava vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Il Maestro risorto lo aveva riabilitato. Gli aveva dato l'incarico di pascere le sue pecore, ed ora Pietro lo seguiva. In quel momento, voltandosi, vedendo Giovanni dietro di loro, Pietro chiede a Gesù che cosa sarebbe stato di lui. La riposta di Gesù lascia senza fiato. E a te che te ne frega, pensa a te. Simile risposta è molto significativa. È indiscutibile che il nostro rapporto con Dio sia personale. È scontato che ognuno di noi debba rendere ragione di se stesso davanti a Dio. Eppure se qua è un errore tra i figli di Dio, è quello di interessarsi troppo ed erroneamente degli altri. Ci sono figli di Dio che stanno al volante della loro vita con l'occhio fisso al compagno di viaggio, piuttosto che attento ai segnali stradali. Sono talmente concentrati a trovare errori grandi come una pagliuzza negli altri, da non vedere gli errori, grandi come una trave, in loro. Paolo disse, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio, 1 Corinzi 4:5. E ancora, chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi, Romani 14:4. Non si tratta di un incoraggiamento ad ignorare chi ci sta accanto, non ce n'è né bisogno, ma a non avere una preoccupazione illecita verso il prossimo. Dobbiamo amare i fratelli, il prossimo, ma dobbiamo anche lasciare a Dio il diritto di fare negli altri quello che vuole. Dobbiamo, inoltre, permettere al prossimo di fare i suoi errori, di rotolarsi nel fango dei propri problemi. Troppa intromissione nei piani di Dio induce il nostro Creatore a risponderci duramente. Fregatene, tu pensa a te stesso. Di lui non me ne occupo io? Sì. Preoccupiamoci del prossimo, ma più di tutto di noi stessi. Avremo meno tempo di caricarci di problemi che non ci riguardano. 4:1 Corinzi 4:3 Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. L'Apostolo Paolo era stato costituito da Dio araldo, apostolo e dottore dei gentili, 2 Timoteo 1:11. Ma il suo ministero non era gradito a tutti. Alcuni parlavano male di lui, diffondevano notizie non vere. Anche alcuni credenti di Corinto, nonostante egli fosse stato il loro padre spirituale, nutrivano delle remore nei suoi confronti. A questo punto Paolo risponde per le rime, «Io, quasi, me ne frego di essere giudicato da voi e da un tribunale umano». L'Apostolo Paolo non era indifferente all'opinione degli altri, non era come un toro infuriato che tirasse diritto a qualsiasi costo, ma si era liberato dell'insano e innato desiderio di piacere al prossimo. Egli aveva scritto anni prima, infatti, «Cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo». Galati 1:10. Prima della conversione, come chiunque, Paolo aveva cercato di piacere a tutti, ma si rese conto, alla luce del Vangelo, che ciò non era possibile. Tante teste, tante opinioni. Così fece una scelta, di piacere a tutti i costi, a Dio e non agli uomini. Sì. Nessuno può svolgere un'opera per Dio se non ha questo atteggiamento. Nessuno può servire Gesù Cristo se non mette al primo posto di essere gradito a Lui. Nessuna persona riuscirà ad accontentare tutti per quello che fa, ma può accontentarne uno solo, uno al quale un giorno dovrà rendere ragione. Poi, poco importano i giudizi degli altri. Una buona dose di menefreghismo rivolto a coloro che professano la stessa fede è indispensabile per essere in grado di servire Dio costantemente. 5 Galati 2:1-6 Poi, dopo 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Orbi salii per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi, o non avessi corso invano. Ma neppure Tito, che era con me bete fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere, e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. In questo brano l'Apostolo Paolo attesta che il Vangelo da lui predicato non proveniva dall'uomo e prosegue la difesa della sua autorità apostolica e del Vangelo che lui predicava, concentrandosi non sulla fonte, ma sul contenuto. Alcuni giudaizzanti erano contrari al messaggio di Paolo e insegnavano che, per essere salvati, occorresse essere circoncisi. Paolo fa presente che gli apostoli non gli imposero nulla, cioè non discussero il contenuto del suo messaggio, e poi aggiunge quali fossero stati non mi importa nulla, cioè a me proprio me ne frega. Riferendosi a Pietro, Giacomo e Giovanni, Paolo, pur riconoscendo che erano uomini influenti, di particolare stima, chiunque essi fossero un tempo, riferendosi alla loro posizione peculiare di favore durante il ministero terreno di Cristo, a lui proprio non importava. Sembra che non solo i 12 apostoli originali fossero venerati come compagni terreni di Cristo, ma che anche ai fratelli terreni di Gesù fosse apparentemente accordata una venerazione simile. Per questo Paolo non aveva riguardi personali. Davanti a Dio, tutti coloro che hanno posto fede in Cristo sono uguali. Il problema dei riguardi personali in una chiesa è molto serio. Questo peccato è così sottilmente presente da indurre Giacomo a scrivere: se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Giacomo 2, 8 a 9. Se teniamo presente che amare il prossimo è il comandamento per eccellenza, quello in cui si trovano racchiusi tutti gli altri comandamenti, Giacomo, se ho ben compreso, sta affermando che non sia sufficiente amare il prossimo, perché vi è un altro peccato che si può commettere: avere riguardi o favoritismi personali. Troppe chiese, troppi figli di Dio, hanno creato partiti e divisioni per ragioni di parentela, di amicizia o di persone influenti. Solo chi teme Dio onora tutti, ma senza riguardi personali. 6. Filippesi 1:1-18. Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto, o sinceramente, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. L'Apostolo Paolo ha vissuto tutta la sua vita alla proclamazione del Vangelo. I successi di tale consacrazione non si sono fatti attendere, e molti credevano al suo messaggio. Alcuni, però, invidiosi dei suoi successi, iniziarono a proclamare il Vangelo per invidia e contesa. Nulla di nuovo sotto il sole, per carità, perché, come dice l'Ecclesiaste, ho pure visto che ogni fatica e ogni successo nel lavoro risultano in invidia dell'uno contro l'altro. Ecclesiaste 4, 4. Ma quando questa invidia è nel regno di Dio, una cosa del genere fa sussultare chiunque, perché non vi è nulla di più deprecabile. Ma la reazione di Paolo, uomo di Dio, ripieno di Spirito Santo, è veramente eccezionale. Bene, predichino pure l'Evangelo per provocarmi, chi se ne frega? L'importante è che Cristo sia fatto conoscere a tutto il mondo. Anzi, sai cosa ti dico? Io mi rallegro lo stesso. Adilo, cie! Che mirabile reazione! Questo è l'atteggiamento dell'uomo di Dio. Dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni figlio di Dio. Eppure nella Chiesa di Dio vi sono delle guerre inutili, stupidi, senza un buon senso. Molti pastori di anime sono gelosi delle loro pecore, gelosi del loro messaggio, quasi che stiano facendo e dando qualcosa di loro. Ma il messaggio e le pecore sono del pastore. Conservare il gregge nel nome di Gesù Cristo, come Gesù lo conservò nel nome del Padre, significa imprimervi il carattere del proprietario, non il proprio, umano, carattere. Si riscontrano pastori e pecore che non hanno nulla in sé del carattere del Signore, adirati, litigiosi, gelosi, invidiosi, avidi, maldicenti, sospettosi del male, avari, tristi, ipersantissimi, gonfi. Nessuna pecora del gregge di Dio, però, perisce se è curata da un pastore eletto da Lui, tranne quella sorda ad ogni insegnamento, insanabilmente ribelle, che frequenta abusivamente il gregge, figlia della perdizione. Non devono esserci nella Chiesa pastori padroni, né di greggi, né d'ovili, né d'anime, né di locali di culto o d'altri beni congeneri, che la Chiesa stessa, con l'aiuto di Dio, si sia procurati. Paolo non era invidioso di nulla, si rallegrava solo quando l'Evangelo che gli era stato affidato veniva proclamato. È triste quando si portano avanti delle guerre fredde solo perché la si vede diversamente su sfumature bibliche insignificanti. Da allora una buona dose di menefreghismo aiuta a vivere e lascia vivere. 7. Matteo 22, 15-21. Allora i farisei, allontanatisi, si consigliarono sul modo di cogliere Gesù in fallo nelle parole e gli mandarono i propri discepoli, con gli erodiani, per dirgli: «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che insegni la via di Dio in verità senza preoccuparti del giudizio di alcuno, perché tu non riguardi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Allora essi gli presentarono un denaro. Ed egli disse loro: «Di chi è questa immagine e questa iscrizione?» Essi gli dissero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Prendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. Che Gesù fosse diverso da ogni altro uomo, i suoi nemici lo avevano capito. In una ennesima discussione, riconobbero che egli predicava la verità senza preoccuparsi del giudizio di alcuno. Il che voleva dire che gli dicesse la verità fregandosene dei giudizi altrui. In altri termini più legittimi, diceva la verità, costi quello che costi. Anche questo aspetto nel regno di Dio ha un grande valore. Generalmente un figlio di Dio dice la verità, ma fino a quando questa abbia un prezzo contenuto. Predichiamo l'Evangelo facendo attenzione di non perdere l'amicizia interessata. Riprendiamo il fratello tenendo presente che un giorno potremo avere bisogno di lui. Confessiamo i peccati facendo molta attenzione di non perdere troppo la reputazione. Riconosciamo il nostro usuale ritardo, mettendo enfasi sui motivi che lo hanno procurato. Abbiamo tutti un disperato bisogno di essere stimati, onorati, apprezzati. E questo fa sì che spesso il nostro parlare sia inquinato, ambiguo, avendo come presupposto il fine di essere accettati dal prossimo. Difficile essere liberati da questa grave malattia. Difficile dire la verità, tutta la verità, senza preoccuparsi del giudizio di alcuno. Ma avendolo fatto Cristo, i suoi seguaci, se sono disposti a seguire le sue orme, faranno lo stesso. Ci si riesce solo essendo in grado di fregarsene dell'opinione altrui riguardo quello che diciamo. Queste riflessioni, pur motivate da un buon spirito, hanno un punto debole, prestano il fianco alla critica. In essi si trovano termini quali frega, fregarsene o menefreghismo, che hanno, per la nostra cultura, un aspetto negativo. Comprendo, ma, usando un linguaggio più confacente, le mie riflessioni non avrebbero l'impatto che invece spero abbiano avuto. Un parlare meno forte non avrebbe raggiunto il mio scopo. Del resto, se vogliamo riconoscerlo, anche Dio a volte usa espressioni veramente forti, e non certo per il gusto di parlare così, ma solo perché desidera ottenere un certo risultato. Salomone stesso ordinò di dividere il bambino in due per poter scoprire chi fosse la vera madre. Così, se prendiamo nel giusto spirito le riflessioni fatte, avremo quel beneficio da esse prodotto in me e in tutti quelli che, pur non esprimendosi in termini simili ai miei, per non cadere sotto condanna, mettono comunque in pratica tali principi. Ottobre 2003, Prilerio.